sei un giornalista di merda, perché tu stimoli andare al cesso. Quando sento te mi viene voglia di cagare, perché tu hai una capacità di fare giornalismo pari a zero, ok? La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Altre volte a Cruciani darei un pugno in testa per quanto mi fa incazzare, ma altre volte l'abbraccerei per le cose giuste che dico. Allora, è incredibile, caro Parenzo, come Renzi all'improvviso, guardando forse i sondaggi che calano e guardando i sondaggi che dicono che gli italiani poi sono fortemente contro gli immigrati, si sia trasformato in un novello Salvini. Se tu senti le cose che dice questo Renzi oggi, credo. No, questo credo, ovviamente sto parlando in un novello Salvini dal punto di vista dialettico, dal punto di vista delle dichiarazioni. Dice bisogna colpire gli scafisti, addirittura in un'intervista credo a una rete straniera ha detto che sui barconi non ci sono solo famiglie innocenti. Cioè, ha detto sostanzialmente che bisogna proteggersi dai pericoli del terrorismo e qualche terrorista si può annidare dentro i barconi. Adesso io non dico a ragione, a torto, faccio notare solo questa cosa, che forse per i voti, perché i sondaggi calano, improvvisamente Renzi si trasforma in una sorta di leghista a scoppio ritardato. E sentiamo qualche cosa di Renzi, dai, dichiarare guerra agli scafisti. Perché tutto d'un tratto, quando queste cose le dicevano Forza Italia, la Lega anni fa, venivano tacciati di razzismo, eccetera, eccetera. Adesso le fa proprie Renzi e tutti razzismo, zitti. Razzismo, quello no. Come no? Che dice la Lega anche, è altro, no? Anche quando questo. Si diceva utilizzare la Marina Militare. Forse questo, no, d'accordo, però quando si diceva utilizzare la Marina Militare oppure colpire gli scafisti, cioè si metteva l'accento su queste cose. Quando bisogna vedere cosa vuol dire colpire. Quando si metteva l'accento su queste cose, i leghisti, quelli di Forza Italia. No, ma mi pare che gli scafisti siano stati colpiti, sono stati arrestati. Ma che c'entra? Quello perché erano su una nave salvati. Mi pare che sono stati colpiti. Però David, cerca di capire quello che voglio io dire. Capisco, io voglio dire semplicemente come Renzi farà, ecco, questo voglio dirti io. Ecco. Questo voglio dirti con affetto. Questa gente che prende sti disperati gli fa pagare $2,000, gli dà allo scafista che lo butta dentro una nave e lo manda via a morire nel Mediterraneo. Questi sono i nuovi trafficanti di schiavi. Allora, la gestione innanzitutto è dichiarare guerra a questi trafficanti di schiavi. E incredibilmente pure il signor, sì, ma perché giustissimo solo adesso? Questo. L'abbiamo già detto ieri. Anche il signor Alfano parla di affondare i barconi. Ma te lo ricordi tu quando veniva da noi il signor Borghezio, Marione Borghezio, a dire che bisognava affondare i barconi? Diceva bisogna colpire i barconi. Eppure là è razzista, vergogna, Alfano. Noi siamo alla ricerca di un consenso su un quadro di legalità internazionale per affondare i loro barconi. In loro che devono, modo? Noi dobbiamo impedire che questi barconi partano da lì. Alfano, è una vita che partono da lì, caro Alfano. È una vita, caro ministro degli interni, c'è è un'esistenza. C'è una parolina che mi è sfuggita però. Cosa? Una dimmi. Piccola parolina. Cosa? In questo audio. Qual è? Che dice stiamo cercando di trovare l'accordo. Cioè, devono trovare l'accordo come hanno fatto in Albania col paese. Mamma mia, che noia, che noia. Che noia. Alla Camera, un leghista contro non so chi, siete assassini, le tolgo la parola. Sì, era Baldelli che presiedeva la Camera, Grimoldi che diceva al governo siete assassini. Bravo però, cosa? Baldelli, bravo. Siete diventati assassini. perché non è tollerabile che questa situazione. Onorevole Grimoldi, per favore. Onorevole Grimoldi, mi ascolti. Onorevole Grimoldi, mi ascolti. Onorevole Grimoldi, mi ascolti. Onorevole Grimoldi, per favore. Onorevole Caparini, per favore. Lei ha tutte le facoltà di argomentare le sue. Onorevole, onorevole Grimoldi, lei mi deve ascoltare, altrimenti le tolgo la parola. Certe cose mi fanno impazzire, perché per carità capisco la pietà umana, capisco il dolore, capisco, però non è tempo né di pietà umana né di parole. Sì, sì, lo capisco, non è tempo né di pietà umana né di parole, è tempo solamente di azioni. Questo vi voglio dire, popolo della radio, popolo della zanzara, quelli che sono collegati da tutti i mezzi possibili e immaginabili. Cioè non è tempo di parole, è per questo che io dico che me ne fotto delle parole di dolore, di cordoglio, cioè, non è più tempo di parole, non è più tempo di parole da parte delle persone ovviamente preposte a questo, da parte delle persone che hanno responsabilità. È tempo di fatti, di azioni. Poi è evidente che non si può impedire tutto, no? Non si può impedire, esatto, che le persone muoiano in mare, non si può, non si possono impedire. Si potrebbe evitare. Aspetta, aspetta, senti questa qua. Allora, Concita De Gregorio, che non so che fine abbia fatto, la signora De Gregorio, non so, scrive lavora ancora, tre, no? Scrive ancora per la Repubblica, non lo so, comunque scrive per dei pezzi. Ma non la sentivo, cioè, da tempo, questo voglio dire, non è una cosa negativa. Rai 3 ogni giorno. Non possiamo umanamente impedire il loro arrivo. Non possiamo umanamente impedire il loro arrivo. Io questa cosa qua non la capisco. Perché o diciamo, la conseguenza di questo è: chiunque abbia bisogno, abbia fame, può tranquillamente venire, perché il bisogno e la fame vanno colmate. E allora io lo capisco chi dice questo. È impossibile, però è una posizione. Invece quelli che dicono non possiamo umanamente impedire il loro arrivo, ma che vuol dire? Allora di, la conseguenza è accogliere tutti quei, che se uno dice sono indigente, c'ho fame, sono non ho mezzi di sostentamento nel Sahel, in Africa, nel Bangladesh, ha diritto di venire in Italia. Uno deve avere il coraggio di dire questo. Siccome è impopolare, non si può dire ed è impossibile, non lo dicono. Il mondo è uno, non ci sono i confini, non ci sono più i confini. I nostri ragazzi studiano qui, poi vanno in Europa, in America, in Cina, in Africa, vanno ovunque. Allora noi non possiamo assolutamente in nessun modo immaginare di mettere un argine a queste persone che stanno arrivando. Non possiamo, dal punto di vista, mi viene da dire, logico, di semplice umanità. Cioè, scusate se ho capito male, la signora Gregorio mette sullo stesso piano quelli che vanno a fare l'Erasmus o quelli che vanno a studiare in America o in Australia con i migranti che hanno fame. Beh, io credo che sia offensivo anche nei confronti dei migranti che hanno fame. Cioè, lo dico soprattutto con un occhio a queste persone qua. Sta mettendo sullo stesso piano i ragazzi che si spostano per i motivi più disparati in tutta Europa, in tutto il mondo, e quelli spostano, che arrivano qui per la, cioè, fame. Il ragionamento è ci spostano, no, si senti, non è un ragionamento che può tenere. Fare esperienze diverse, sei troppo intelligente, sei troppo intelligente per poter fare un paragone così. Cioè, non ci sono più confini. Tra l'altro è una boiata pazzesca. Beh, perché non è vero che non ci sono più confini. Non è vero, è pieno di confini ovunque, giustamente, è pieno di confini. L'Europa non ha confini, per vabbè, fortuna. Ma che c'entra? C'è Schengen all'interno, per dai, David. Fortuna, l'Europa non ha confini, per allora, fortuna. Incredibile, servizio pubblico potrebbe avere sputtanato Mediaset. Attenzione, servizio pubblico, in particolare Mattino 5. Vi ricordate quelle interviste a quelle rom che dicevano, no? Rubo ai vecchi, non me ne frega niente perché tanto devono morire, sono vecchi. E altre interviste del genere che abbiamo sentito, che hanno fatto esplodere un po' il caso dei rom nei giorni scorsi. Ebbene, secondo servizio pubblico, alcune delle persone intervistate da Mattino 5 sarebbero state pagate per dire delle cose. Senti. Noi siamo uscite dalla scuola, sì, a San Paolo. A San Paolo. Poi ci ha visto la giornalista, ci ha dato 20 euro per dire ste cose, che noi rubiamo al giorno 1000 euro, che deve morire la vecchietta, ste cose. Io ho detto. Clamoroso questo qua. Ovviamente bisogna credere a questa persona. Ma no, i rom sono intelligenti, ti rendi conto? Vabbè, adesso devi devi difendere Mattino 5 per forza. Può darsi no, pure. No, ma non sto difendendo Mattino 5, non mi interessa. Sto senti questa cosa. I rom hanno preso in giro tutti. Perché darsi, siccome sanno, questa è la sostanza. Beh, qualunque cosa, se gli ho offerto 20 euro è grave. Quello comunque. Ma mangiare, dico che rubo, che me frega, rubo, mangio. Ma sono furbi! sono furbi. Bravi, sono stati quelli, Nazione Rom. Bravi. Sì, però Davide, ogni volta che vi metto è inutile che sfuggi dall'argomento. Se tu gli dai i soldi per parlare, se ti, è grave, sarà grave o no? Io non ho dato nessun soldo. No, chiunque l'abbia fatto. Figurati se io do soldi. Fermi, no, per carità. Sì, una volta l'hai dati non sono venuti in studio. Fermi tutti, traffico. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca. Una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. Vabbè. Strade in diretta. Nuovo aggiornamento, traffico bloccato a causa di un incidente, si viaggia anche in coda per 3 km sulla 4 Venezia-Trieste tra la Tisana e San Giorgio verso Venezia. Sul tratto Milano-Venezia della stessa 4 code per lavori ancora tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. E si viaggia incolonnati sulla tangenziale nord di Milano, oltre che per il traffico intenso a causa di un incidente tra la vecchia Valassina e l'innesto con la statale 36 in direzione Bologna. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia code tra Broni Stradella e Voghera verso Torino a causa di un incidente. Le code raggiungono i 5 km. Sulla 14 Bologna-Taranto code tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento con la 13 in direzione Taranto a causa del traffico intenso. Ed ancora incolonnamenti sulla statale 148 Pontina per incidente tra Castel Romano e Pratica di Mare in direzione Roma ed anche in direzione opposta a partire dall'allacciamento con il grande raccordo anulare. Maggiori informazioni sono a vostra disposizione sulla mappa sul sito di Radio 24. A più tardi. La Zanzara. Allora, pochi istanti fa Parenzo mi ha chiamato Paolo Villaggio, ha detto: ragazzi, devo dire una cosa sui migranti, su quello che è successo, eccetera. Ha detto: io guarda, ti richiamo alle 18.40, 18.45, vediamo un po', va. Proviamo. Pronto? Paolo? Sì, sono io. Ciao, come stai? La Zanzara, Cruciani? Sì, lo so che sei Cruciani. Ti riconosco dall'odore. No, come dall'odore? Paolo, ciao, Villaggio, come stai? Parenzo. Ah, ciao, Parenzo. Paolo, allora, che succede con gli immigrati? Ho una soluzione fondamentale. Qual è? Ucciderli. No, ma perché dici? Non si può dire una roba simile. No, scherzo. Ma non è un problema, è un problema gravissimo per tutti, ma mi sembra che la soluzione che stanno proponendo tutti è di impedire che questi escano dalla Libia, impedire che questi disgraziati vengano in Europa, perché in Europa, al Nord Europa, non li vogliono. Sì. Tutto così, l'altro problema è farli annegare, mi sembra che sia un finto buonismo tipicamente cattolico di farli morire in mare, poi, perché molti non sanno neppure nuotare. La tua soluzione qual è? La mia soluzione è via navi da guerra, via intervenire. Bisogna intervenire economicamente a favore di questi disgraziati che si rischiano la vita. In questo modo, soluzione è solo dargli da mangiare in Africa. Andare lì vestiti da suore, vestiti da buoni, fingendo di essere buoni anche se non lo siamo. E lì in Etiopia, dove stanno morendo veramente. No, ma questo lo capisco, ma sai che è la posizione, è esattamente la posizione della Lega, che dice basta immigrazione qui in Europa e invece bisogna aiutare i paesi africani. È la posizione della Lega. Sì, no, ma io non sono ridotto in quelle condizioni. In che senso? Perché la soluzione più saggia e più utile è quella. Anche se è della Lega, anche se fosse dovuta a Hitler, ecco, Hitler poteva aiutarli meglio forse. In che senso? Eliminandoli, però eliminarli non si può. Eliminarli non si può, quindi è inutile esprimere profondo dolore. Come giudichi per esempio quelli che si battono il petto, Mattarella oggi, la Boldrini e altri politici che esprimono dolore, come li giudichi? Anche il Papa, dai. Anche il Papa, certo. Sì, profondo dolore, non gliene frega un cazzo, scusatemi la parola. Ma non è vero. Possono rimanere impressionati di vedere annegare i bambini, possono rimanere scioccati da quella morte terribile, annegati. Sì. Ma non è che si provi profondo dolore. Il profondo dolore è sempre molto cattolico e molto inventato. Dunque anche il Papa, secondo te, è ipocrita in questa cosa? Direi di sì. Poi non glielo dite però, perché si incazza. No, per carità. Ma tu hai paura dell'arrivo di tutti questi immigrati in Italia? In Italia, in Europa? No, perché io non ci sarò. Ah, quando ci saranno 1 milione di immigrati sarai morto. Sì. Sarai morto. Quindi non me ne frega un cacchio. Senti una cosa, ma allora bravo Salvini quando dice che bisogna aiutarli lì, non bisogna accoglierli. Sì, ha ragione lui. Ha ragione Salvini. Purtroppo sì. Senti, ma il Vaticano non dovrebbe prendersene un po' in tutti i possedimenti immobiliari che ha, oppure anche a Castel Gandolfo, da qualche parte, cioè non potrebbe accoglierne un bel po' in tutto lo spazio che ha a disposizione in Italia, come sappiamo? Ma loro sono cattolici, quindi sono piuttosto egoisti. Ah, sono egoisti. Predicano. Altrimenti l'avrebbe già fatto, no? Ma lo spazio per centinaia di migliaia di persone ce l'avrebbero lo spazio, i signori del Vaticano. Allora chiediglielo tu. Io già glielo dico, non ti preoccupare. Ho i miei problemi su questo, quando dico queste cose, ho i miei problemi. Sì, lo so che hai dei problemi, tu finirai in galera addirittura. Penso che sia altamente probabile, caro Paolo. Cosa vuoi che ti porti, arance oppure dei supplì? Io spero che tu sia vivo, perché spero che tu campi ancora, non so che cosa ne pensi tu, spero che tu possa campare ancora per tanti anni. Io non credo che tu voglia. Almeno 20. Ti prego, la prossima volta che mi inviti, sì, vengo anche a Milano per fare una lista di persone che vengano al mio funerale. Possiamo cominciare anche adesso. Cioè, subito, chi vuoi che venga al tuo funerale? Bertolucci, Bernardo. Sì. Sì. Benigni. Sì. Cruciani. Sì. Parenzo. Sì. Salvini. Però. No, Salvini no, per carità, no. Le persone più care, più vicine, Borghezio? Diciamo. No, Borghezio. Per esempio Penelope Cruz. Penelope Cruz? Berlusconi? Sì, che è molto... Anche magari, sì. Guarda, accetto tutti. Tutti. Ma non è possibile. Tutti. Più persone, anche gente di colore. Esatto, anche vengono pure anche migranti. I Rom. Ecco, sì, i Rom. Cani e porci vorrei al mio funerale. Cioè, che non c'entrano niente i Rom, no? No, assolutamente. Ma non c'entrano neppure i porci, poveracci, che li ammazzano, poi hai visto, crescono, sì, li danno a mangiare e poi li ammazzano. Senti, sai che cosa ho scoperto, caro Paolo? Che all'Expo, tu conosci l'Expo, no? Certo. Allora, praticamente faranno la... ci saranno degli stand, sì, dove, Parenzo, diglielo tu, la carne di... Dunque, si mangerà carne di coccodrillo, scorpioni al cioccolato, il pesce palla, che è vietatissimo, peraltro, in Italia. Sì. Anche le termiti. Tu che cosa hai mangiato di strano qualche volta? Avrà mangiato qualcosa di strano? Serpente. L'hai mangiato? Come no. In Giappone. Sì. La carne di cane l'hai mangiata? Sì, in Cina. Hai mangiato il cane? Che schifo, ma non si può, dai. Ma come non si può? Ma è vergognoso. Ma com'era, buono? Ma no, ottimo. Cane ottimo. Ottimo, ma perché ottimo? Tu dove vivi? A Milano? Sì, a Milano. Io a Roma. Allora ti manderò la prossima volta una lista di ristoranti dove il coniglio è gatto, miagolana. Ah, dici dove alla fine fanno il gatto invece del coniglio. Ma l'hai mangiato il gatto tu? I gatti l'hai mangiati qualche volta? Due gatti, beh sì. A Vicenza. Ma gli animalisti, che ne pensi degli animalisti? Quelli che... Gli animalisti fingono di essere buoni. E invece? Come tutti i santi. E invece sono gente, sinceramente, che finge di essere buono perché fugge disperatamente dalla propria cattiveria. Va bene Paolo, ti abbraccio, a presto, quando vengo a Roma ti chiamo. Ciao. Ciao. Grazie, Paolo. Ciao Paolo. Adesso, cari amici, dopo aver scoperto che c'è un Paolo Villaggio in versione leghista che dà ragione a Salvini, vi faccio ascoltare, così per farvi scaldare, anche per farvi un po' incazzare, un ex consigliere regionale del Lazio che si chiama Antonio Paris. Questo signore, Antonio Paris, dovrebbe ridursi il suo vitalizio di una percentuale solo per 3 anni che va dal 7 al 10%, insomma poche centinaia di euro al mese, poche centinaia di euro al mese. Questo tizio Paris non vuole, nonostante il vitalizio, come sappiamo, sia una cosa vergognosa nei confronti dei cittadini, nei confronti di quello che prendono i cittadini. I contributi se li sono decisi loro, sono decisamente più generose le pensioni dei consiglieri regionali e parlamentari rispetto a quelle dei cittadini normali. Questi qua non vogliono e fanno ricorso per impedire la decurtazione di pochi euro solo per 3 anni. Nessuno gli vuole togliere nulla, è una specie di contributo di solidarietà. Ma sentite questo signor Paris. Ma perché vi volete fare belli sempre sulle spalle nostre? Ma facciamoci belli sui sacrifici complessivi del paese. Ma perché solo io devo fare il sacrificio? 2599,79 decurtato. Decurtato. Quindi vuol dire che prima ne prendeva ancora di più. 3100. Ma rido. Quanto ha fatto lei di legislatura? Io ho fatto 2 anni e mezzo. Senza che ride, perché se lei ride deve sapere perché sta ridendo. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Zanzara. Quando la chiudi questa trasmissione? Allora, mai. Mette l'anima in pace, però non si può sentire più, dai, se può essere. Mamma mia. Alla fine certe voci non è che passano solamente alla Zanzara o in altre trasmissioni, eh? C'è la pancia delle persone, la pancia che noi cerchiamo ogni tanto di aprire per tirare fuori quello che c'è, un'operazione quasi chirurgica, si espande a macchia d'olio, giustamente secondo me, perché è uno spezzone violento, tremendo della società, che però in qualche modo limitato, commentato, ovviamente ha il diritto di venire su, ha il diritto di essere giudicato in maniera anche dura, ovviamente, come abbiamo fatto noi. Non dipende solamente non è solamente questione della Zanzara o della radio. Trasmissioni televisive, anche blasonate, caro Parenzo, anche blasonate, hanno tirato fuori la pancia delle persone sulla questione degli immigrati. Ti voglio fare sentire per esempio quello che è accaduto, che ne so, a Piazza Pulita, se lo abbiamo, a Piazza Pulita qualche giorno fa, oppure ieri durante intanto una trasmissione, credo che fosse di martedì o Ballarò, quello che è. Quello che è successo sabato nel canale di Sicilia. Ma gli sta bene, non dovrebbero dover succedere a tutte le sue famiglie, a tutti loro, basta! Sono stati un sacco di morti. Non interessa niente, se succedevano italiani invece tutti stavamo zitti? Basta, non farli più venire in Italia, star là al loro paese. Questo credo Ballarò se non sbaglio. Bergamo alto. Ho capito, però è Ballarò, capisci? Sì. No, Ballarò. Poi Piazza Pulita lunedì. Ascolta, chi aiuta al suo paese, non qua danno altri. Ma se arrivano da noi? Sì, che se nega. Signori, voi non sapete più dove qui metterli, no, poveretti. Prego tesoro. Perché dovremmo cogliere i poveri? Perché ne si sa una marea. C'è una strage in corso nel Mediterraneo. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? E che provveda l'Europa, sti bastardi. Non le scalda un po' il cuore il fatto di queste Ma quale rotine? Scalda? Però in casa sua non li vuole. Ma non vuole scherzare? Un buco, ma lei, in casa, ma lei lo fa apposta? Ci fa o ci crede? Ma in Sicilia li stanno accogliendo come possono. In Sicilia, e siamo in Sicilia, qua nessuno li vuole. Se lei li vuole, vada in Sicilia, sa quanti gliene danno. Ho letto una notizia che non mi ha sconvolto troppo, caro Parenzo. Al di là il di quello... Veneto non è solo sta gente qua. Ma non, che c'entra il Veneto? Può essere in tutte le regioni. No, quella era Veneto. Sì, erano dialetti veneti, erano accenti veneti. Infatti, certo. A Lampedusa aprono veramente le case. A Lampedusa, dove hanno sbarchi quotidiani, hanno aperto le case. È pazzesco. A Catania, il comune, vabbè, si è listato a lutto. Io sto dicendo semplicemente per la morte che non è, dei che non è questione a di Veneto. Catania, ti rendi conto? Ma listare a lutto che ci vuole? No, ha dichiarato il lutto cittadino. E vabbè, allora a Lampedusa, che è un un'isola allora? Piccolissima. La cittadinanza porta non capisco a mangiare che vuol dire. I migranti, le porte delle case sono aperte. Vai a sentire da quelli di Lampedusa come la pensano sui migranti. Ma sono stato tante volte, non c'è nessuna paura a Lampedusa. No, ma io non sto dicendo che hanno ragione, ma non è questione di Lampedusa né di Veneto. Non c'è nessuna paura. E a Lampedusa sbarcano, hanno un centro che esplode di uomini e allora, donne. Ho letto una notizia, Expo, sentite questa cosa, l'80% di giovani che hanno fatto domanda di lavoro per lavorare 6 mesi all'Expo, secondo dati ufficiali, ci ha ripensato e ha rifiutato 1.300 euro al mese, compresi festivi e notturni. Dovevano lavorare certamente molte ore, adesso non credo che dovessero lavorare 7 su 7. Quanto? 1.000? 1.300 al mese, insomma turni troppo scomodi per questi giovani che avevano fatto domanda di lavoro, e l'80% ci ha ripensato. L'80% ci ha ripensato, capisci, no? Poi, capisci a me, capisci ci sono a me. Gli immigrati che invece prendono, no, ma io non posti, io ti dico solo questo. Salta fuori la nonnina veneta, no, casa loro, sa, casa loro, che c'entra noi vogliamo, scusa, che noi c'entra? E ci portano via il lavoro, casa loro vanno. Ma dai. Sì, ma io me la volevo prendere con quelli che poi gridano lavoro, lavoro durante le manifestazioni. Io capito? Volevo prendermela con la nonnina invece. Ti sta sulle palle la nonnina? Vabbè. Moltissimo. Ma perché ti sta sulle palle molto, la nonnina? Moltissimo. Perché spara da casa intanto. Anziché fare la calzetta e fare la polenta, o le tagliatelle come faceva le nonne. Ma non ha ancora sparato, vuole sparare, ma non ha sparato. Spara, ancora. La nonnina non deve sparare. La nonnina deve fare i tortellini, deve fare la calzetta, deve leggere un libro, ascoltare la musica, badare. Non oh, deve ragazzi, sparare. È legge il divorzio breve, Sì. È legge il divorzio breve, siamo tutti contenti qui. Dopo 10 anni. Finalmente una roba civile in Italia con grande ritardo. Con grande ritardo, ma una cosa civile. Adesso non so bene i dettagli, che bisogna andare a vedere i dettagli. Però viva Dio, eh! And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Renzi alla Camera, combattiamo una guerra contro i trafficanti di uomini, basta sciacallaggio politico, e aggiunge sui barconi non solo famiglie innocenti. Nel dibattito sull'immigrazione Lega e 5 Stelle attaccano il Premier, per Salvini è un becchino incapace, Grillo via gli irregolari oppure sarà stato di guerra, Mattarella in Slovenia. Dal Consiglio europeo ci aspettiamo iniziative forti, si ponga fine all'ignobile traffico di uomini, la conferenza episcopale, piano dell'Unione europea, debole e vergognoso, ancora sbarchi, centinaia di arrivi nei porti di Salerno, Lampedusa e Augusta, e sono tanti i bambini che sorridono e si abbracciano mentre toccano terra. Via libera l'Italia come in commissione, solo con i voti della maggioranza, da lunedì in aula, Berlusconi, il governo Renzi ha fallito su tutto, Boschi no al voto segreto. La Camera ha approvato il divorzio breve, ora è legge, da domani per dirsi addio bisognerà aspettare solo 6 mesi e non più 3 anni di separazione legale. 45esima giornata della Terra, celebrata da oltre 1 miliardo di persone in quasi 200 paesi, tra cui l'Italia, con azioni concrete per la salvaguardia del pianeta. Proprio perché anch'io ho commesso degli errori tragici, posso dire in coscienza che è meglio evitare il matrimonio che evitare un amante. In realtà ci vorrebbe una legge per l'eliminazione del matrimonio, non per il divorzio breve, ma lasciamo perdere. 800 24 00 24, andiamo con Antonella da Brescia, vai Antonella. Pronto Giuseppe, ciao. Dimmi. Ciao, no, io volevo intanto commentare quanto ha detto Paolo Villaggio, dimmi. Mi ha sconvolto per quanta cattiveria. Ma io che cattiveria, scherzava, dai, forza. Veramente non sono rimasta sconvolta. Poi sono d'accordo con te, sono vero stasera, su quanto hai detto per la posizione di Renzi a riguardo del fenomeno dell'immigrazione. Io sono veramente stanca di questo atteggiamento del politicamente corretto che ci ha portato qua, perché invece il problema andava gestito in un altro modo da subito e soprattutto tutti all'unisono, non solo con l'Europa, ma anche le stesse forze politiche italiane dovevano essere unite, non invece fare campagne elettorali e propaganda sulle spalle della povera gente che muore lì, ma anche dei tanti italiani, anche degli stessi meridionali che comunque non vivono nel loro. Va bene Antonella, grazie. Riccardo da Roma. Sì, buonasera, io sono un veneto emigrato a Roma. Sì. Quindi memoria della memoria di che siamo un popolo di emigranti, noi veneti. Che significa veneto emigrato a Roma? Cioè un veneto trapiantato a Roma, non è che sei emigrato, non è che hai fatto, non è che hai preso il barcone per arrivare a Roma, avrei preso l'Eurostar, no, insomma. No. Però l'aereo, comunque... sei andato in aereo a Roma, cioè sei per lavoro rossa, sei andato a Roma, Freccia sì. Rossa. Il Freccia Rossa, bravo, sì. Però siccome i veneti storicamente sono emigrati negli Stati Uniti e sono stati trattati da migranti, sì. Allora Lampedusa è di fatto oggi l'Ellis Island d'Europa. Sì, ma vogliamo dire una volta per tutte che questo argomento che viene utilizzato da molte persone, da Saviano, da per ultimo anche da Morandi, che ha scritto un Facebook ed è stato ignobilmente insultato da migliaia e migliaia di persone, no, migliaia magari no, insomma, da qualche centinaio di bestie che l'hanno insultato. Sono argomenti che io capisco, perché Morandi dice giustamente dobbiamo ricordarci di quando anche noi italiani emigravamo negli Stati Uniti, pezze, in Australia, con le pezze. Benissimo, erano in Australia. Posso dire che è un paragone. È pieno di veneti in Australia, sì, lo sai o no? Davide, posso dire che è un paragone assurdo da fare. No, è un paragone che non calza nella maniera più assoluta. Perché c'è una enorme differenza. Enorme. Un'enorme differenza. Primo, perché gli italiani andavano là ed erano selezionati anche brutalmente per lavorare, e infatti per lavorare. Ricordo di quello. È un'altra roba questa, è un'altra roba che non può essere era paragonata. La fame che spingeva gli italiani di sì, allora. Ma non ci non è un no, paragone assurdo, è un paragone anche sì la ma no, soprattutto di... ci sono centinaia sì, di ma migliaia qual è il di veneti, ma perché vuoi paragonare Australia? Ma perché vuoi paragonare due situazioni che sono imparagonabili? Perché storicamente ma perché diverse, fa comodo ma paragonare così, ma non ha senso. Il motivo era lo stesso. E comunque lo non stesso. È una soluzione questa qua, anche se tu paragoni queste cose, non dai indicazioni. C'è un bellissimo film che si chiama Pane e Cioccolata. Dai, con i film Manfredi. Non fanno nulla, non andatelo risolvono niente vedere. I film. Nino Manfredi, Pane e Cioccolata, l'italiano va che bene, va in allora Svizzera. Facciamola. Guardate com'era trattato dagli svizzeri, l'italiano Nino Manfredi in questo bene. Straordinario dopo film. Aver citato i film, dopo aver citato quello che ti pare, la vera. Soluzione qual è? Accogliere tutti? Pubblicità. Oh. Pubblicità. Silenzio, senza interruzioni. Borse in diretta. Wall Street prosegue sopra la parità con il Dow Jones a più 0,29% e il Nasdaq a più 0,16%. Le borse europee hanno chiuso nel territorio contrastato in attesa dell'Eurogruppo di venerdì. Negative Francoforte e Londra, rispettivamente meno 0,6% e meno 0,49%. Positive Parigi, più 0,36% e Milano, più 0,32%. A sostenere Piazza Affari soprattutto le banche guidate da Unicredit, più 3,3% sulle ipotesi di quotazione della controllata tedesca HVB. Bene ST più 3% circa, Eni ha segnato più 0,4%, a mercati chiusi S&P ha comunicato il taglio del rating ad A-. Sotto pressione il lusso, complice l'allarme utile di Richmond e i risultati deludenti di Kering. Tod's meno 2,6%, Ferragamo meno 1,6%, positiva invece Moncler più 2,6%. Sul fronte valutario euro sempre sopra 1,07 dollari, petrolio sulla parità a 56,4 dollari al barile. E con i mercati è tutto. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Cosa succede a Radio Padania, una delle rubriche più ascoltate della Zanzara? Senti un ascoltatore. Che le navi, quando arrivano le barche degli extracomunitari che sono fuori, affondarle in mare. Fai vedere le tue braccia possenti a chi ti vuol fermare. Ultima cosa, adesso c'è questa menata della tragedia in mare. Ma scusami, da dove vengono questi numeri? C'è forse una lista dei passeggeri da cui si può verificare il numero? Ci sono dei biglietti venduti? No, ci sono soltanto le chiacchiere di chi dice che sono affondati in 700, senza averli visti. Questi sono solo menate che ci fanno per far vedere a noi che siamo buoni, che siamo poveri, che dobbiamo salvare tutti, noi. E poi interviene un certo... Radio, radio idiota. Guarda avanti. Sì, mi ha interrotto, ti volevo segnalare. Radio idiota. No, ma mi ha interrotto. Certo, allora, radio idiota. No, ma sarà radio idiota, ma mi ha interrotto. Parla Max Romeo, un conduttore. Ho sentito una trasmissione a Radio 24, La Zanzara, dove hanno fatto sentire, c'era tra l'altro ospite l'assessore Viviana Beccalossi, che è assessore al territorio di Regione Lombardia, dove c'erano dei cittadini che chiamavano e dicevano di quelle cose che erano non quello che si sente a Radio Padania, ma il peggio, ancora peggio, cioè degli interventi che erano folli, no? A gente che ha telefonato, chi se ne frega, anche se dovessero morire in mezzo al mare, non c'è, cioè... Il muro di onnipotenza. Cioè, capito? Cioè, rispetto a quelli loro. Dai, su. Il fatto che loro li lasciano parlare in libertà. Cioè, questa è la differenza. No, gli danno ragione. No, li danno, qualche volta danno ragione, altre volte li lasciano parlare così a ruota libera, senza dire nulla. Non è che dicono lei è un pazzo. Quelle telefonate sono in linea con le tesi della Padania. Questa poi c'è anche un'amica massone. No, sentiamo prima Salvini che fa una pernacchia, sì, sì. Mi hanno detto, aspetta. I sindaci della Lega devono fare i sindaci della Lega. E quindi quando chiamasse un prefetto dicendo guarda che ci sono 50 immigrati da ospitare a Travagliato, allora un'altra cosa ridicola è Forza Italia contro l'Italicum. So che non frega niente a nessuno, però Forza Italia, che fino all'altro giorno, fino a gennaio di quest'anno, era a favore, ha votato sempre a favore dell'Italicum, adesso non scendiamo nei dettagli, adesso siccome hanno deciso di fare l'opposizione a Renzi, addirittura Berlusconi di che cos'è che parla? Parla di regime, parla di delirio di onnipotenza di Renzi, cioè Berlusconi parla di delirio di onnipotenza di Renzi, non so se vi rendete conto, mentre Brunetta parla addirittura di deportellum, cioè hanno votato fino all'altro giorno la stessa identica legge più o meno, e oggi siccome devono fare l'opposizione a Renzi vanno sull'Aventino, ridicolo. Questa riforma elettorale propongo di chiamarla deportellum, altro che italicum, è la legge dei deportati, perché se qualcuno non è d'accordo deve essere cacciato via, noi non ci stiamo. Berlusconi ha detto che Renzi è malato di bulimia di potere. Ora io dico, sarà anche vero, no? Cioè sarà anche vero, non lo so, può darsi che Renzi sia uno cui piace il comandare da solo. D'altra parte da tanti anni abbiamo detto che ci vuole uno che comanda, adesso c'è uno che decide, non è che ci possiamo incazzare troppo, almeno noi che lo dicevamo prima, noi che lo auspicavamo prima. Però che Berlusconi dia a Renzi del malato di bulimia di potere, francamente fa divertire. Manuel da Monza, sempre 800240024, Manuel. Pronto? Dimmi. Cruciani? Sì, no, fino a prova vuoi parlare, scusa. Lei a me sembra un compagno stretto dei suoi amici leghisti. Cosa vuol dire io andare non ho amici. A bombardare? Non ho amici, amico mio. Non è amici. Ma cosa vuol dire andare e bombardare tutte le navi pescherecci libici per proteggere l'Italia da cosa? Dall'invasione di chi? Non hai capito, Manuel. Dall'invasione di cosa? A parte che è un'idea non mia, ma anticipata qui alla Zanzara tempo fa dal professore emerito Edward Luttwak. Ah, Edward. Fenomeno, eh. Ma non lo so se sia un fenomeno. Sono le stesse cose che dice adesso il governo italiano. Manuel, sono le stesse cose che dice adesso il governo italiano. Non so se sia un fenomeno. Allora, deve dire fenomeni pure ai governanti italiani, sono le stesse cose che dice oggi il governo italiano, cioè dire colpire i barconi prima che partano vuoti, per quanto sia possibile farlo, ovviamente attraverso operazioni di intelligence, con i droni, con i missili, con tutte le apparecchiature elettroniche che conosciamo e le apparecchiature, come dire, no, di dotazione di armi che l'Occidente è capace di dispiegare. Vergognosi. Perché sarebbe una catastrofe? L'immigrazione non si combatte così. E come si combatte? L'immigrazione si deve controllare. Vabbè, ma quello infatti è un modo per controllarlo, amico mio, in modo per non far arrivare 1 milione di persone qui, è uno dei modi, magari per controllarlo dobbiamo usare le armi, dobbiamo andare giù e iniziare a bombardare. No, forse non hai capito, non è bombardare le persone, fenomeno, professore, non è bombardare le persone, è affondare i barconi vuoti. Vuoti o pieni, non si deve affondare niente. Ah, non si deve affondare niente, benissimo. Niente. E allora i barconi utilizzati dagli scafisti non si devono affondare. Ah, va bene, d'accordo. Saranno finché ci sarà morte, fame e guerra nel c'entra? Mondo, l'immigrazione voi non lo fermate. Ah, va bene, d'accordo, tu sei della tesi Parenzo, siccome non si può fermare niente, che dobbiamo fare? Raccogliamo tutti quelli che dicono ho fame, tanto nel Sahel muoio, in Congo muoio, andiamo ho lì fame. E iniziamo a bombardarli. Secondo la tua geniale tesi. Non è quello, non ho detto di bombardare nessuno, non ho mai Madonna mia ragazzi, che personaggio. Manuel, personaggio. Ma tu mi puoi dire quello che vuoi, sei libero di dire quello che vuoi. Il problema fondamentale è che non ho detto quello che tu immagini, cioè non ho mai detto di bombardare qualcuno, ho detto di bombardare i barconi vuoti, affondare il mezzo con cui i mercanti di uomini portano disperati in Europa, chiaro? Io no, non ti va idea. Bene manco perché questo. Dimmi la tua genialità, avanti. Perché non iniziamo arrestando quelli che ci lucrano da qua? Vabbè, da ma qua, che c'entra quello quando si scopre, quando si scopre qualche magagna come nel caso di Roma Capitale, si arrestino tranquillamente anche questi. Ma cosa si arresta? Che non si arresta mai niente. Quello è un problema, è un altro problema. Gente come lei è sempre qui e cerca sempre di scaricare la colpa agli altri. Andiamo a bombardare gli altri, andiamo a casa degli altri a fare cose, andiamo a facciamo così, invece di pensare a risolvere la questione qua. Fermo restando che l'immigrazione. Va bene, Manuel, grazie. Ambrogio da Pesaro, vai. Buonasera, Cruciani. Dimmi, Ambrogio, dimmi. No, volevo dire due cose sul ministro dell'interno e il presidente del consiglio che sì, vai. Si sono improvvisamente accorti che dopo 800-900 morti che c'è un fenomeno di immigrazione selvaggio che non possiamo più sostenere, secondo me. Eh sì. E il rischio qual è? Il rischio è che l'italiano che non è razzista diventi razzista. È inevitabile. Ora io dico, Alfano, che pur di mantenere la sedia si è alleato col diavolo, è riuscito a far modificare la legge elettorale dal 5, dall'8 ha portato al 3% pur di rientrare. Berlusconi ha votato fino a ieri una classe politica proprio inefficiente, Cruciani. Vabbè, allora... uno stato sovrano può mantenere un'immigrazione selvaggia così? Ma è selvaggia adesso, non è che se decidesse subito di proteggere i nostri confini. Come li deve proteggere? Non lo so questo. Ciao Ambrogio, ciao. Devono decidere loro. Ciao. Parenzo, non puoi scrollare le spalle di fronte alle persone che hanno, come dire, una naturale repulsione nei confronti dell'immigrazione clandestina. Una clandestina. Naturale repulsione. Sì, le persone nei confronti ci sono un sacco di naturale repulsione. Nei confronti non abbiamo neanche commentato dell'immigrazione clandestina. Della ruspa che è comparsa, la ruspa, cioè evocata a parole, poi fisicamente comparsa. Dove? In un campo rom a Livorno con la solita passeggiata elettorale del signor Salvini. Ne parleremo più avanti. Ne parleremo più avanti, male, non ti preoccupare. Abbiamo con noi adesso una persona che è finita, non dico nell'occhio del ciclone, perché no, ma insomma. Sì, Ricolfi. No, che c'entra il professor Ricolfi? Quello scrive sul Sole 24 Ore, che c'entra? Una persona che aveva delle foto su Facebook, si è candidata alla regione in una lista. Di cui poi faremo il nome ed è stata attaccata come dire la sexy candidata in Campania. Si chiama Stefania, ma anche secondo me non c'è niente di male. Si chiama Stefania La Greca. Buonasera. Ciao, buonasera. Come stai? Ma è un nome d'arte. Bene, benissimo. Candidata... La Greca è un nome d'arte, però. No, che no, nome? È il mio nome, non come ho dire, nome d'arte. Mi chiamo Cruciani così. Detto il Crux. No, Stefania no. La Greca sarà, no. Stefania La Greca, il vero nome. Ah, vabbè, è candidata di Lega Sud Ausonia, cos'è giusto? Cos'è l'Ausonia, scusi? Ma che vuol dire Ausonia, scusi? Ausonia è un paese in provincia del Lazio che ha fatto del sud, ma lei non sa manco che significa Lega Sud Ausonia. Non sa neanche lei, dai, diciamo la verità. Stefania, sei fantastica, devo dire che sei fantastica. Ma cos'è? Perché Lega va bene, capisco la parola, Sud anche, ma Ausonia? Lega è un paese, pare, che ne so, io non lo so francamente che vuol dire Ausonia. Io. Tu lo sai, Stefania, che vuol dire? No, non lo sai, ma non fa niente. Poco male, dai. Ci sei? Pronto? Sì, avevo una, sì, un'interferenza, non la sentivo più col cellulare, con l'altro telefono. Benissimo. Vabbè, senti Stefania, ma allora perché hai cancellato tutte le foto che sono su Facebook in cui eri, francamente, devo dire, bellissima, le foto allora, con un seno prorompente e tutto? Che io non ho foto in intimo, non ho foto succinte o piccanti come sono stata definita. Po' succinte sono, ma non c'è niente di male a avere foto succinte. Assolutamente, la foto più che ho, diciamo così, un po' più scollata, sono in bikini al mare, sono foto private che ho fatto, insomma, come ce l'hanno tutti, quindi sì, non so per quale motivo, insomma. No, ma non c'è niente di male ad avere delle foto di questo tipo. Insieme alla tua candidatura hai messo anche sul tuo profilo una serie di foto in cui eri in costume, non eri nuda, assolutamente no, però assolutamente non le troverete mai, perché per non ho carità foto del genere. No, però erano foto tue con questo seno molto prorompente, molto bello. Io sono foto bellissime, io le ho divorate, come dire, come il classico maschio italiano, devo dire la verità. Però non capisco perché tu le hai tolte. Perché non mi andava che, insomma, che vedessero le mie foto in bikini, che sono foto, ripeto, private, che non che le faccio tranquillamente quando vado in vacanza, quando capita che si fanno i selfie, oppure con anche amici ti fanno fotografie così in riva al mare, quindi non è che ci siano. Non credo che il privato dovrebbe insomma distorcere l'attenzione del problema politico che abbiamo in Italia, non soltanto nella regione. Non c'è dubbio, Campania. Però certo. Quindi, assolutamente, tu sei candidata tra l'altro per Caldoro, in sostanza, con questa Lega appoggia il signor Caldoro, se non sbaglio, no? Qualcuno a differenza di chi? Di molti politici, è sempre stato onesto. Quindi, signor Caldoro, non ha mai rubato, dici tu, no? Non ha mai rubato, dici tu. Sì, insomma, sappiamo i politici che cosa hanno fatto fino ad oggi, quindi diciamo che io sono e mi sento una cittadina qualunque molto arrabbiata per questa classe. Molto arrabbiata. Politica. Senti, ma io non ho capito, tu dici il privato, però quando uno mette le foto su Facebook immediatamente diventano pubbliche, non è che fossero private. Cioè, è un social network, appunto, voglio dire, dico. Non è che purtroppo, insomma, oggigiorno diventa tutto pubblico, anche se semplicemente in un social network. Invece secondo me le dovevi lasciare, ti posso dare un consiglio: se le lasciavi spaccavi, se le lasciavi spaccavi. No, ma già ho spaccato, perché è da mettere nei manifesti, non ho bisogno di spaccare. Ma no, ma l'intelligenza, bene, mica la bellezza fa schifo, le posso suggerire, signora La Greca, se la bellezza può servire per attirare l'attenzione su questi temi, ben appunto, venga, voglio dire, se temi, tutto è basato su, anche sulla superficialità, che non mi appartiene. Però ma lei che fa di mestiere? Signora La Greca, che fa di mestiere lei? Io lavoro in banca, quindi volevo dire che ho il mio ottimo lavoro, non sono disoccupata, ho tutte, insomma, le carte in regola per essere, sono impiegata, e quindi non ho bisogno di una carica politica, perché sinceramente faccio parte di una di quelle persone fortunate, evidentemente. Cioè, sei assunta, sei un'impiegata, insomma, sei un'impiegata, una sex impiegata, diciamo così per scherzare, una sex impiegata. Vabbè, sexy, ragazzi, delle bellissime foto, io che devo dire, erano bellissime. Voglio dire, non è che lei è fidanzata, signora La Greca? Questo è il mio privato. Io non chiedo, lei è fidanzato? No, perché sentivo Cruciani interessato, lo facevo per lei è fidanzato? No, io sì, lui sì, io lui sì, no. Cruciani non sì, alle volte sì, alle volte no, dipende, sì. Dipende, un po' dipende, cambio molte partner, quindi è una persona poco seria, adesso poco brava, seria, La Greca, brava. Si può dire così, però, signora La Greca, si può dire così. È innaturale per me chiamare La Greca, però scusami, non mi viene proprio, è innaturale. Scusi, allora io adesso Stefania, le do un'informazione, Stefania, ti do un'informazione. Ausonia, regione corrispondente all'attuale provincia di Reggio Calabria, anticamente abitata dal popolo degli Ausoni, e questa è la spiegazione. No, gli Ausoni no. Però io devo chiedere, è anche un paese, ripeto, che sta nel Lazio. Sì, ma che c'entra il Lazio con la Campania, amica mia? Vabbè, ma comunque questo che ce ne frega. Ma come che c'entra? Fa parte del centro-sud, capito? Il sud. Dai, cioè, Parenzo, su, Parenzo. Non è che, sinceramente, non l'ho creato io il nome del partito. È giusto, ma che non saperlo. Posso mettere Lega Sud o Vindoli, ma chi se ne frega, però, scusa. Ovindoli. Però, scusa, Stefania, posso chiedere, perché eri chiamata la Divina? O sei chiamata La Divina? È un nickname. Bello, la Divina. che ho da quando avevo 16 anni, ma ripeto, quando si trattava si giocava ognuno di noi a un nickname, penso che ha avuto in passato qualche... Ma perché eri... Io ho visto un filmato, tu, ma è tuo quello dove stavi con una maschera con delle labbra carnose, rosse? Sì, è tuo quello che è una roba pazzesca, sembra una roba porno quel filmato là, scusami se te lo dico, bellissimo, sì, anche... roba porno, è semplicemente un messaggio d'amore che ho mandato a una persona a cui amo, quindi... Ah, veramente? Quindi, sì, con la maschera, beh, bellissimo. Perché non le hai lasciate tutte queste cose? Io veramente devo dirti. Come l'ho lasciato? Cioè, ma... Hai lasciato tutto? Questo video? No, le foto l'hai tolte, hai detto, no? Le foto? Ma ho tolto qualche foto in costume, ho tolto qualche foto con qualche amica, con qualche amico, perché penso che il privato non debba uscire, insomma, su una questione politica, ma semplicemente per questo, sì. Non perché ci siano foto da nascondere o quant'altro. No. Senti, ma hanno detto che sei come la... qualcuno ha detto, beh, una nuova Minetti, perché ti sei offesa? Non ho capito. Ma perché non voglio entrare in un calderone basato sull'aspetto sessuale che l'uomo ha per la donna. Perché la Minetti che cos'è secondo te? Ma io non lo so, però se c'è stato questo scandalo sotto, sinceramente, cioè, non ti offende essere accostata, non voglio neanche giudicare. Ma io penso che ognuno di noi è diverso da un altro. Io non voglio somigliare né alla Minetti né altre persone che mi hanno detto, sinceramente, io sono io e basta. No, ho letto qua un'intervista al Mattino. No, per carità, sono offesa se mi accostate al nome della Minetti. Per come mai ti offende? Vabbè, poi si sa che i giornalisti, insomma, ci ricamano sopra. Semplicemente ho detto che io mi offendo se mi paragonano a un'altra persona, perché non penso di essere come un'altra persona. Cioè, sei diversa. Quindi... In che cosa sei diversa dalla signora Minetti, per esempio? Ma io non la conosco, cioè devo giudicare una persona, tu non lo so, non penso con quello che è stato detto in passato, io non mi ritengo assolutamente simile, quindi non andresti mai a cena a casa di Berlusconi, addirittura. No. Ma come per amicizia, come stima, quello certo. Che c'è, ma assolutamente non andrei a cena per altre motivazioni. Cioè, in questo sei diversa, dici? In questo come sono. Immagine, come nostra. In questo sei... No. Senti, mi dici una cosa, la prima cosa che fai, se dovessi entrare al Consiglio regionale, e per questo ti consiglio di rimettere tutte le foto possibili e immaginabili, ti do un consiglio, come dire, di marketing quasi, la prima cosa che fai, entri in Consiglio regionale, la prima cosa, il primo provvedimento. Vabbè, io Dimmi. Semplicemente vorrei dare il mio piccolo contributo a questo cambiamento di logica, lo faccio con un movimento che, ripeto, sta da 20 anni, soprattutto di far emergere il sud, certo, per quanto riguarda tutti, per mettere in moto tutti i processi produttivi che utilizziamo, le nostre vocazioni territoriali, cioè il turismo. Turismo, come anche dicevo oggi ad altre interviste, noi non abbiamo questi grandi collegamenti, non dico da Napoli in giù, non ci sono questi grandi collegamenti che ci... Certo, che ti permettono di migliorare le strade, i treni, queste robe qua. Insomma, certo. Senti, però, a proposito di foto private, in un Santino diffuso, tu non è che eri in una bella pose in una discoteca, in un divanetto di una discoteca, con le gambe di fuori, cioè eri con la minigonna, così, in una posa non proprio avevo messa. un pantaloncino neanche corto. Tra l'altro, poi sedendosi si è alzato, ma non è un pantaloncino abbastanza coperto. No, ma va benissimo, tu lo sai che dietro la sua candidatura c'è anche l'ex fidanzato, tra virgolette, tra parentesi, finto, della signora Noemi Letizia. Tu conosci la signora Noemi Letizia, Stefania? No, l'ho conosciuta perché, cioè, la conosco di vista, ma non ci conosciamo di persone, perché diciamo che è compaesana, quindi... Ah, è compaesana addirittura, compaesana. Cioè, nel senso, no, se non mi sbaglio, lei è di Ercolano, non la conosco bene, è Ercolano. Senti, ti posso fare 4-5 domande di politica, vediamo a che punto sei in politica, magari sei un po' indietro. Guarda. Sei un po' indietro, Craxi, che cosa è stato in Italia? Che ha fatto? Io penso che lei mi sta facendo le stesse domande che mi ha fatto la Lucarelli prima, che è uscita. Non ho sentito nulla. No, sto dicendo Craxi, che ha fatto? Allora, questa è un'intervista, non un'interrogazione. Ma che vuol dire? Le chiedo, lei vuole fare politica. Craxi, che ha fatto in Italia? ma non sto a scuola, quindi non voglio fare un esame. Ma non è un esame, le sto chiedendo le cose basilari, che ne so, Nil De Jotti, cosa è stata in Italia? Non voglio parlare di queste cose, ma se lei domanda a lei, le faccio interrogazioni. Ma sono io giornalista, lei deve fare politica, signora La Greca. Ma non c'è niente di male non saperlo, dire, non lo so, non so niente della politica italiana, ottimo. Assolutamente lo so, non che non lo so, perché ho studiato tutte queste cose, anche a scuola andavo abbastanza bene. No, ma allora le chiedo, Craxi, cosa è stato, che ha fatto? Non voglio rispondere a queste domande provocatorie. Ma no, provocatorie, perché provocatorie? Sono provocatorie. L'articolo 1 della Costituzione, cosa recita? L'articolo 1 della Costituzione. Mi scrivo il libro su tutti i politici che ci stanno. Ma l'articolo 1 della Costituzione, che ne so, vabbè, un attimo solo. Aspetti. La saluto. Arrivederci, grazie, arrivederci. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, pubblicità. Zanzara. Stefania, scusami, sono sempre io, Cruciani, da prima. Ma non ti volevo fare un'interrogazione. Sì. Non ti volevo fare un'interrogazione. Volevo semplicemente chiederti questa cosa della foto della Madonna. Ma sono di nuovo in diretta? Sì. No, ti ho richiamato perché era caduta la linea. Sei un bastardo, Cruciani, scusami. No, te lo sto dicendo adesso. Questo sul giornale. No, allora, no. Sono molto cattolica. Sì. Sono molto cattolica e quindi è il sacro con il profano. Io semplicemente sono una persona molto cattolica e metto spesso sia l'immagine. Vabbè, perché hai sostituito le altre? Perché hai messo questa foto qui alla? Perché mi protegge la Madonna, mi protegge dalle persone che cercano di. Anche da me ti protegge. Parlare o da persone di infangarmi. Insomma, ma chi è che cerca di infangarmi? Anche a me fa piacere la critica. Appunto. Ma spesso, signor Cruciani, mi ha infangato facendomi quelle domande. Perché? Perché? Di giurisprudenza. Ma che giurisprudenza? Ti ho chiesto, chiesto chi è la Iotti e qual è l'articolo 1 della Costituzione. E poi ero pure molto brava, mi hai chiesto l'articolo, guarda, io mi sono studiata, se proprio vuoi sapere, ero bravissima anche in diritto, avevo 9 a scuola, se proprio vuoi sapere. Appunto. Ma no, ma allora perché non hai risposto? Io non voglio mostrare queste, ma che cosa interessa adesso, in questo momento, queste domande da gossip, tra l'altro quando poi ma quale gossip? Da aiutare veramente. Ma qual è il gossip? Se ti io chiedo. Sinceramente mi sono semplicemente candidata per aiutare la mia regione. E vabbè, questo lo sappiamo. Domande questo continuamente come veramente la zanzara, perché pungi in un modo incredibile. Fai bene a chiamare il programma la zanzara, perché mi pungi e mi stai anche risucchiando. Senti un attimo, senti una cosa. Allora, tu una volta hai scritto: purtroppo sono nata in un contesto di donne facili, uomini perversi e straputtani. Ma che vuol dire? Corrotti di cui io non faccio nemmeno. Allora. Semplicemente donne facili assolutamente non mie, non sto parlando delle donne, parlo delle donne di spettacolo, le donne che hanno fatto una carriera pubblica, quindi sì. Non stiamo parlando. Ma di chi donne sono? Quali sarebbero queste donne facili? Vabbè, ma qualsiasi attrice, qualsiasi, c'è stato questo scandalo di anche nella politica, non voglio fare i nomi perché non voglio fare i nomi, capito. Donne, insomma, donnine un po' fasci dell'uomo, chiaramente che cosa ha fatto? Uomini perversi e strabuttani. Che vuol dire strapuccare? Perché secondo me tutti gli uomini sulla faccia della terra sono i puttani, vedi, è una vera puttana, è un uomo. Oh, bella, ecco, io lo dico. Ecco un bell'argomento, ecco un bell'argomento. Tutti gli uomini sulla faccia della terra sono dei puttanieri, secondo te? Sono puttani, vedi, poi la vera puttana è l'uomo. Dio, mamma, lo puoi anche, guarda, mi puoi anche fare come. No, bella. Un titolo su questa no, che cosa. Titolo, che me ne frega il titolo a me. No titolo, però voglio dire, tutti gli uomini, le vere puttane sono gli uomini. Ma perché dici? Cioè sono quelli che sono più disponibili? Cioè perché spiegamelo. Ma gli uomini sono sempre, cioè ogni uomo basa sempre tutto su se stesso, vede la donna come un oggetto sessuale e basta. In genere la prima cosa che voi fate, cioè la prima immaginazione che voi fate è sempre quella. Cioè soprattutto ti parlo della mia esperienza personale, cioè il fatto di essere bella quindi è stato pure un problema, non è stato facile nel percorso della mia vita, insomma, andare avanti e sentire tante persone, che comunque tanti uomini che si rompevano le scatole, cioè non è facile. Ogni cosa che ho iniziato a fare, gli uomini sono sempre provati, cioè non... Beh, scusami, no, ma quello è vero, gli uomini spesso si fanno, come dire, si fanno trasportare da queste cose, la donna viene vista solo come oggetto sessuale, vabbè, però non è che tutti gli uomini sono così. È spesso debole l'uomo, non c'è niente da fare, è molto sparso. Ma tu, la maggior parte degli uomini sono deboli. Sì, ma tu l'hai mai, scusa un attimo, ma tu l'hai mai data per lavorare? Mai, non lo sai chi la do, il mio fidanzato. Brava, ma tu sei... Io sono spesso che la persona che amo, ma assolutamente, non sono, io penso che, a parte che penso del sesso è una cosa così privata, sinceramente. No, vabbè, ma che dire, se una donna la dà per lavoro, sto dicendo, se... No, assolutamente. Non ci penso proprio, ma voglio stare disoccupata, non ci penso proprio. Cioè, se un uomo... Ma non la darei a una donna, un uomo non, io non la darei mai proprio. Ah, una donna sì. A una donna sì. No, muore quest'altra cosa, sto scherzando. Vabbè, che hai detto, etero, una donna, Ah, sei etero proprio sparata. Però. Beh, per esempio, il matrimonio gay non ti piacerebbe? Fai una bella proposta se entri in regione Campania, una grande battaglia. Perché che c'è una di male? Grande battaglia. No, donna, non sono una donna gay. No, donna gay, ti piace l'uomo, la donna? No, abbiamo capito. Però il matrimonio gay, sei d'accordo per il matrimonio gay? No. Assolutamente sì. Assolutamente sì. L'adozione? Sì. Pure l'adozione? Ma l'adozione è sempre per quanto riguarda i gay. Io penso che in Italia siamo un po' dietro in generale. Brava, questo è giusto. In questo caso, questa forma di razzismo. Questi sono i tuoi temi. Questi sono i temi su cui la penso. Questi sono i temi. Grande battaglia, compagna la greca. Queste sono. Ok, adesso vi saluto perché ho altre cose da fare. Che deve fare, che devi, che devi fare, fate attenzione alla mantide religiosa, perché può essere che ci rimane voi. Chi è la mantide religiosa? Come la mantide religiosa? Rispetto come la zanzara, signor Cusani. La mantide religiosa, la mantide. Comunque guarda che quando ti sciogli, quando ti sciogli sei buona, sei al top della dialettica, quando ti sciogli, non quando fai la rigida, quando ti metti a parlare, no, di ti devi sciogliere. Ti devi sciogliere, devi dire tipo cicala, solo che è più bella la mantide religiosa. No, ma ti devi sciogliere, devi dire gli uomini sono tutti dei puttanieri, mi vogliono solo sfruttare, quando vedono, guarda, pensano solo al sesso. Basta, appunto, finisco. Ma perché stronzi? Cosa. E adoro le donne, quindi è inutile che parlano male di me le donne, perché non hanno capito niente. Ma gli uomini che c'hanno? Che hanno fatto di male? Vabbè, d'accordo, gli uomini, guarda che gli uomini di potere sono un disastro, però da quel punto di vista, cioè, tu entrare in politica, là la politica so cazzi, da quel punto di vista, te lo dico subito, ma però comunque un bel macello. Vabbè, ciao, ti abbraccio, dai, ciao, ciao. Saluti, signore. Ciao, ciao, ciao. La signora la greca, la signora la greca, alla greca. Combatte già la greca però, Nome di battaglia, immagino. Vabbè. Federico da Milano, dai. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. No, vabbè, una vergogna. I giovani d'oggi che per 1300 euro non vanno a lavorare all'Expo, perché poverini, hanno un orario troppo pesante e devono lavorare anche nel weekend. Beh, ragazzi, ci meritiamo il paese in cui viviamo. Hai ragione, hai perfettamente ragione. Hai perfettamente ragione. È uno schifo. Io non lo so, perché poi naturalmente dicono che molti di questi che hanno fatto domanda poi hanno trovato altri lavori. Non sarà l'80%, però le persone in Italia quando devono faticare, quando devono lavorare, non lo fanno. È inutile che dicono stronzate, non lo vogliono fare. Giustamente anche magari, non dico, però poi non ci si deve lamentare, non c'è lavoro, eccetera eccetera. Non ci si può lamentare. Federico, no, non volevi dire? No, questo basta. Era Carlo Roma. Carlo Roma, vai. Pronto, Cruciani, buonasera. Dimmi. Niente, volevo dire alla signora Stefania La Greca, che forse assomiglia fisicamente a Minetti, ma come cervello a Flavia Vento, preciso. Cioè tu dici zero proprio. No, però vedi, quando si è sciolta, sì, quando si è sciolta, Carlo, non era male quando si è sciolta. Sì, ha detto due parole. Solo basta. Che poi quando cominciava a parlare di politica, dai. Non sapeva l'articolo 1, non sapeva chi era Mille Iotti, non sapeva chi era... Come si chiamava lì che gli ha detto? Craxi. Vabbè, dice che lo sapeva, ma non voleva rispondere perché non voleva fare l'interrogatorio. Dai, poi volevo dire due parole io sulle basse. La prima cosa, non bombardare i barconi, non bombardare. Bombardiamo casa di Parenzo, che è meglio. Ecco, è meglio cosa. Bombardiamo casa di quel. Ecco, che c'è un altro. Se quello è frocio, non è frocio, c'è sta, può fare frocio. E questo che c'entra? Ma vedo. In che senso? Guarda, che io sono orgogliosamente eterosessuale, ma non capisco cosa c'entra questo. Ma quale eterosessuale? State zitto, sei più frocio di froci. Saluta tuo fratello, allora. Salutalo. Salutalo a casa tua. Salutalo. Anzi, prima di tornare a casa, avvisa la tua moglie, prima di tornare. Ma ti preoccupare, io quando arrivo a casa... Telefona prima, dici, guarda, sono Carlo da Roma, sto tornando a casa, amore... Sono a 500 metri, sono a 400, sono a... E guarda nell'armadio, Carlo. Apri l'armadio. Aspetta, fermi. Voglio a trovare. Bussa a casa. A che piano abita a casa lei? A che piano abita a casa? Portateli a casa, te quell'altro Manuel. Scusi Carlo, a che piano abita a casa lei? Capito? A che piano? Non ce l'ho a casa. E allora attento, perché l'amante esce dalla finestra in genere. Quindi suona prima. Aspetta, ma vi volete? Posso far giornalista, posso far commentatore, far giornalista. Che e forse tuo, ci riesci al posto farlo, di telefonare, non fare il cornuto, chiama a casa. Capito? Prima di tornare. Sì, ma te qua, io sarò cornuto. Te preoccupa. Telefona, se ti piace cornuto. A me domani le corna me se vanno tagliate, te se frocio ci rimani, capito? Questo non credo, se ti piace cornuto. A me domani se le piace corna, cornuto. Telefona. Io una volta che c'è il divorzio, me levo le corna, ci ho più, telefona, te telefona. Capisci qual è il telefona, dammi retta, telefona prima. Ma io chiamo, non te preoccupa, io chiamo sempre. Ma perché gli dai? Ma non ho capito, perché gli dai del cornuto a Carlo? Perché hai dato? Lui offende me, io offendo lui. Conoscerà la sorella, io mi sono sposata la sorella, sono il cognato di Parenzo. No, per fortuna non ho sorelle. Per fortuna non ho sorelle, guarda. È con lì che mi dà del cornuto, c'ha ragione. Per fortuna non ho sorelle. Alza il letto, alzalo il letto. Invece no. Capito? Invece è come te, capito? È come te. Però fermi tutti. Non è eterosessuale. Avvisate la moglie di Carlo che Carlo è al telefono alle 20:11. Avvisate la moglie di Carlo da Roma, che può andare avanti ancora a fare i suoi comodi per 5 minuti. Non si sente. Ogni volta che apri bocca perdi l'occasione per star zitto. Avvisate la moglie di Carlo che ha ancora 5 minuti per fare i suoi comodi. Brucia, ma non ce ne sta l'altro che te può mettere vicino, per forza questo. Da ieri della valle poi che ha detto quell'altro, voglio aiutare la gente che muore, perché qui in Italia stiamo tutti bene. Campiamo tutti di salute, c'abbiamo tutti i soldi. Diego dalla Palma. Avvisate la moglie di Carlo tutti, che ha ancora 4 capito, minuti per fare i suoi bene, comodi. In Italia stiamo gonfi, proprio stiamo a grande, chi ci siamo. Quanto se serve? Ha sentito, parlava del milione d'euro come niente fosse. Sì. Qui Marco si riesce a rimediare 1.300 euro al mese. Quelli che di Milano che non hanno voluto lavorare, il lavoro, nessuno però l'ha detto, era un lavoro saltuario. Per un mese ti faccio fare un culo come ti va, come dico io. Ho capito, io, certo che era lavoro saltuario, non c'è dubbio. Ecco, beh, un mese ti faccio fare il culo, Carlo. Che dico io, ti sfrutto fino a dove posso sfruttare e poi devo sentire quelle stronzate che dice Parenzo. Ma che c'è? Esatto, la moglie di Carlo, che Carlo sta finendo di intervenire alla zanzara. Fai il DNA, Parenzo, i tuoi figli. Ma che c'è il DNA, scusa, ma tu sei... Almeno lo vede che sei sua. Avvisate la moglie. Ma perché ce l'hai così tanto con Parenzo? Spiega. Avvisate la moglie di Carlo. Perché c'è delle stronzate, difende quelli, li difende a spada tratta, che poi che cacchio ti difendi. Ma io difendo anche tua moglie e la libertà sessuale. Quello che gli pare qui in Italia, quelli hanno ammazzato 17 cristiani, questo è un paese fondato sulla civiltà, ma soprattutto perché è anche un paese molto cristiano qui in Italia. Quelli l'hanno ammazzato 17 dei cristiani e mo si mettiamo dentro le patrie galerie, gli damo da mangiare e poi magari li tiriamo fuori e poi Parenzi difende. Mi e squilla il telefono, scusa casa, rimortacci loro dove si trovano. Ah, lei è la moglie di Carlo da Roma, salve signora, buongiorno. No, è ancora la radio, vada pure avanti. Guarda il numero della tua sorella. Porca miseria, io lo sapevo, pare che trovi. Sì, signora, vada tranquillo, guardi. Vada tranquilla. Non disturbare tua sorella, pare. Vada tranquilla signora, la moglie di Carlo. Basta ragazzi, ciao vada Carlo, avanti, vada avanti pure. Ciao, ciao, ha finito. Torna, sta tornando a casa. Torna a casa, chiuda. Spettacolare. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Zanzara. siamo qua, io sarò cornuto, ma è meglio essere cornuto che frocio, perché a me domani le corna me si possono tagliare, te frocio ci rimani, capito? Allora ragazzi, passiamo da questo ascoltatore a quello che disse il Papa, credo una volta su un aereo, quando disse che i gay, insomma, usò parole di amore, di affetto nei confronti degli omosessuali. Poi vi spiego perché rimetto ogni volta questo audio di Papa Francesco. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Il signor Stefanini, omosessuale, già presso l'ambasciata francese, presso la Santa Sede, e nominato dal governo francese ambasciatore presso la Santa Sede, ha incontrato il Papa, il quale ha confermato il no, cioè ha rifiutato il gradimento, non solo per questo, per il fatto che è omosessuale, ma pare anche perché la Francia si sia impuntata, insomma, ne fa una questione formale. Caro Papa, o sono valide le parole che abbiamo sentito, oppure anche tu sei come i politici italiani che dicono una cosa e ne fanno un'altra, predicano bene e razzolano male. Qual è il problema del signor Stefanini, che è gay? Diciamolo esplicitamente allora, siccome è una cosa che interessa a tutti, perché il Vaticano non è che può rifiutare qualcuno semplicemente perché è omosessuale. Cerchiamo di chiarire di fronte a tutti perché stai rifiutando un ambasciatore francese. A me non me ne frega niente l'ambasciatore francese. È una questione di principio. Se il Papa dice che i gay, abbiamo sentito quello che ha detto il Papa, poi non puoi rifiutare un ambasciatore semplicemente perché è omosessuale, no? Perché l'ho dato Gesù Cristo, sempre. Sempre. E continua Parenzo la grande battaglia della Zanzara per il, in accordo con i sindaci di alcuni comuni, per cambiare sì. i cognomi. Beh, come sai, ci sono dei cognomi pazzeschi, no? Dei cognomi pazzeschi in Italia. È giusto cambiarli. I funzionari di alcuni comuni stanno ingaggiando una battaglia con i cittadini. Per esempio, come si fa a chiamarsi Pompini? Adesso, oggettivamente, dai, se tu ti chiamassi Pompini, se tu ti chiamassi Bocchino, no, Bocchino in realtà c'era Italo Bocchino. Italo Bocchino, però insomma, ce ne sono diversi in Italia. Lui ha detto più volte che non gli dà fastidio, anzi. Lui ha detto più volte che non gli dà fastidio? Sì. Sentiamo i funzionari se sono riusciti a convincere i cittadini, perché alcuni comuni si vergognano di avere cittadini che si chiamano Pompini. Pronto, signor Pompini? Non è bello, eh? Signor Bocchino, la chiamo dal comune e lei sa, vero, che dovrebbe cambiare cognome? Le è stata già comunicata la cosa? Cambiare cognome, signor Bocchino, perché il comune, vedo che non l'hanno ancora avvertita, il comune ritiene che alcuni cognomi siano sconvenienti e ha deciso di... Vaffanculo, va! Ma sei che casa? Che casa di... Sì, buonasera, chiamo dal comune, sto cercando Pompini Andrea. Sì, sono la mamma. Il comune ha deciso di cambiare alcuni cognomi ritenuti, diciamo, imbarazzanti, lei mi capirà. La capisco, perché ho sempre voluto cambiarlo, quello di mio figlio. Volevo dargli il mio, ma anche il mio è talmente pagliaccioso che insomma ci ho lasciato quello che... Mi perdoni, il suo cognome è? Lecca Corvi. Pronto? Sì, buongiorno, chiamo dal comune. Pompini Rosella? Sì. Il comune ha deciso di modificare alcuni cognomi giudicati sconvenienti per l'immagine del comune stesso e la chiamo per questo motivo. È disponibile a cambiare cognome? Il mio cognome mi è stato dato Pompini, non vorrà che 68 anni cambi cognome, mi scusi. Se mi vuol dare 1000 euro li accetto volentieri. Però deve cambiare cognome. Ma io il cognome me lo tengo. Pronto? Sì, buonasera, chiamo dal comune. Parlo con Antonio Bocchino. Sì. Non so se lei è informato, ma il comune ha stanziato 1000 euro per coloro che hanno, diciamo così, lei mi capirà e mi perdonerà, un cognome sconveniente e volessero cambiarlo. È disponibile, signor Bocchino? Penso così, ho visto due vie di... Mi perdoni, signor Bocchino, se le chiedo, ma non le ha dato mai problemi il suo cognome di doppia? Va bene, adesso onestamente questa è una cosa personale. Intanto mi chiamare così, già per me mi sembra una presa in giro, dico la verità. No, ma se vediamo un appuntamento, io mi presento in comune, ma parlo sì, col sì, signor ma certo, ma certo, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro, però non si alteri, perché io guardo. No, io non mi sto alterando. Ma a me sembra di sì, però. Altro che così, la voce che si alza da sola. Ma lei ha capito che ci sono 1000 euro a disposizione, cioè il comune ma non è che già i 1000 euro con poco come gli 80 euro di Renzi. Adinolfi è tornato alla carica, ambasciatore gay rifiutato da Papa Francesco. Adinolfi, la Francia non manderebbe un alcolizzato in Arabia. Beh, ragazzi. Dove andiamo? Alessandro Milano. Alessandro Adinolfi, l'alcolismo con l'omosessualità. Sì, la cosa è incredibile. Alessandro, non neanche sottolinearlo, ma insomma. Alessandro Milano. Ciao Parenzo. Ascolta, una cosa che mi ha fatto veramente tanto incazzare è il fatto che dici che l'80% della gente ha rifiutato il posto di lavoro presso l'Expo, praticamente. Ma io vorrei capire quali sono questi parametri. Questi sono ragazzi di 20 anni che sono a casa agiati con i genitori, quando ho una moglie di 38 anni, sì, grazie a Wind, 12 anni di servizio in Wind, cassa integrazione, oggi sta male, stati d'ansia, e non riesce a trovare un posto di lavoro. Vabbè, ma io che cosa ti devo dire? Parliamo di AMSA Milano, la data per un sondaggio. Posso, AMSA Milano A2A. Sì, scusi, però Alessandro, adesso lei ci sta raccontando i problemi di sua moglie nel trovare lavoro. Va benissimo, per carità, va tutto bene. Sì, però ho capito, ma lei ha fatto da Madex Boy, non è mai stata chiamata. Vabbè, ma questa è un'altra cosa, sono lavori temporanei, però non so a che ma titolo. Ma non me ne frega, lei è disposta a lavorare. Ma faccia domanda anche all'Expo, che c'entro io. Scusi, Alessandro, faccia domanda all'Expo. Ma allora chi ha rifiutato? Se dopo lei, dopo 2 anni che sta facendo domanda a Expo, nessuno ha mai risposto. Ma io domande. Non so che domanda ha fatto e a chi ha indirizzato questo curriculum, ecco, eccetera eccetera, non lo so, quindi, non le posso dare questo, una mano, è una io ma non è una, non è una stronzata, una ragazza neolaureata in psicologia, quindi ha, diciamo, ha una laurea, non è una ma stupida io, come ma una qualsiasi persona, però la cosa che mi fa incazzare, dicono che la gente rifiuta il lavoro, ma quale gente? Chi sono? Chi è che rifiuta il sì, lavoro? Io capisco, ragazzi di 20 anni, Alessandro, agiati con i genitori? Io capisco che lei sia imbufalito perché sua moglie ha fatto domanda da psicologo, non so che cosa, per lavorare all'Expo. No, ho fatto domande in qualsiasi settore. In qualsiasi settore, benissimo. Però si rivolga all'Expo, non si rivolga a noi. Io le sto dicendo che... ma perché mi dicono che la gente rifiuta il lavoro quando c'è gente che vuole lavorare? Allora, sono cazzate. Aspetti un attimo, il Corriere della Sera ha scritto che l'Expo ha faticato molto a trovare 600 giovani disposti a lavorare nell'esposizione che inizierà il 1 maggio. Ma okay? Ha faticato molto, d'accordo, attraverso ma un'agenzia mai non ma io non lo lavorare? So perché non chiamano sua moglie. Alessandro, mi passi sua moglie. Vabbè, mia moglie come tante altre gente. Mi passi sua moglie a te. Dov'è? Mi passi sua moglie subito. Mi passi sua moglie subito. Benissimo, scusami, eccomi. Chi è? Che? Pronto? Pronto? Signora, buonasera. Sì. Sì, mi può dire, salve, suo marito prima era un po' arrabbiato perché sì, dice molti giovani hanno rifiutato di lavorare all'Expo, mia moglie ha fatto domande sì, da un paio di anni e nessuno la prende. Ecco, sì, dov'è che ha fatto domande esattamente? Così chiamo il signor Sala dell'Expo e glielo dico, guardi, c'è questa signora qui. Allora, magari... allora inizialmente ho fatto delle domande attraverso le agenzie di lavoro interinale che si occupavano esclusivamente per l'Expo. Sì. Quindi ma per ho fatto fare cosa? Domanda tramite loro, ma non per... Adecco ad esempio sì, e Manpower che è quella per prima. Esatto, ma lei però io sinceramente anche sul loro sito a cui sono iscritta hanno le ricerche sono rivolte soltanto a personale specializzato che ha comunque un'esperienza specifica nel determinato settore. Anche solo per fare hostess oppure accoglienza clienti bisogna avere esperienza in quel settore. E lei che esperienza io ho lavorato per 12 anni in un call center, conosco quindi assistenza clienti ma a livello customer care, quindi non è laureata. Lei è laureata? Sì, in psicologia. Cioè sì, lei ha fatto 12 anni call center, laureata in psicologia sì, e non hanno chiamata? Sì. Non mi hanno mai chiamata. Niente, mai chiamata al telefono. Beh, insomma, pazzesco. Beh. Però, no, vabbè, adesso no, magari chissà quanti. Per ciò che riguarda l'Expo, non mi hanno mai chiamata. E lei è incazzata mi quando. Chiamano solo esclusivamente per ciò che riguarda l'attività di call center. Quindi, in Expo non c'è nulla in merito. Quindi sono. Ah, per fuori, questo. Dunque, si è data una spiegazione. Sì, mi sono data una spiegazione, però, voglio dire, non si dà la possibilità anche le persone che hanno voglia di lavorare di farlo. Quanti anni ha lei? Che ci vuole un'esperienza. Io ho 38 anni, probabilmente sono anche un po' troppo vecchia per il mondo del lavoro, anche se poi ti fanno lavorare 38, 80 giovane, anni. Oh. 38 anni, vabbè signora, che le devo dire? Lo so. Buona fortuna, suo marito era incazzato nero perché dice ha sentito la notizia che praticamente molte persone... No, ha ragione, perché anche io ormai l'arrabbiatura è passata, sono ormai nella fase di... cioè praticamente l'80% delle persone arrivate a un passo dalla firma di un contratto per prendere 1300 euro al mese hanno lasciato spazio poi alla fine agli altri. Vabbè, arrivederci, grazie. Grazie a lei, salve, arrivederci salve. Luigi Bari, pronto, buonasera. Vai, Cruciani, dimmi. Sì, no, volevo riprendere l'argomento riguardo ai barconi da eventualmente affondare sulle coste libiche. Io vorrei riprendere una considerazione di un mio caro amico che lavora nella Guardia Costiera, che ha partecipato ai salvataggi a Lampedusa e quant'altro. Insomma, a suo dire, questi barconi stanno diminuendo sempre di più e sostanzialmente 9 volte su 10 sono sempre... gommoni, parliamo di gommoni che vengono sempre nuovi, che hanno fatto un solo viaggio, quindi voglio dire, considerando i profitti di questa gente, non è che ci vuole tanto a... No, i gommoni no, alcune volte erano barche vere e proprie con 700-900 persone, non erano gommoni. Sì, scusami. Sì, sicuramente le barche, loro riescono a recuperare, a suo dire, cioè questo ci sto riportando, racconti di chi... Ma scusa, lascia perdere i racconti, qui ci sono delle barche che partono, è chiaro che se la gente parte con i gommoni da 10 persone è un altro discorso, si sta cercando di impedire, si vuole cercare di impedire, non so se sarà possibile farlo, la partenza di grandi barconi con 900 persone dentro, 700 persone dentro, di questo si parla. Fermo un attimo, pubblicità. Beh, amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. Borse in diretta. Wall Street ancora positiva grazie ai conti superiori alle attese di alcune società quotate. Il Dow Jones al momento guadagna lo 0,44%, il Nasdaq lo 0,39%. Contrastata invece l'Europa in attesa dell'Eurogruppo di venerdì. Negative Francoforte e Londra, meno 0,6% e meno 0,49%. Positive Parigi, più 0,36% e Milano, più 0,32%. A Piazza Affari bene le banche. Il titolo migliore è stato Unicredit, più 3,3% sulle ipotesi di quotazione della controllata tedesca HVB. Bene anche ST, più 3%, in calo invece il lusso, tranne Moncler, più 2,6%, Tozza ha perso il 2,6% e Ferragamo l'1,6%. Pininfarina ha guadagnato l'11,4% mentre si avvicina l'accordo per la vendita al gruppo indiano Mahindra. Sul fronte valutario l'euro è sempre sopra quota 1,07 nei confronti del dollaro, il petrolio è stabile a $56,4 al barile e con i mercati è tutto. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. Tu sei un depravatone, mi piace anche per quello, anche parente un po' depravato. Pretty soon now, you know I'm gonna make a comeback. Io non so se sia vero o no, ma Berlusconi oggi ha detto che è tra gli obiettivi dell'ISIS e dunque non farà comizi all'aperto. Sì, ora sì. Ci vorrebbe qualche conferma da parte dei responsabili di questa roba, perché non è che uno può dire non faccio comizi all'aperto perché sono un obiettivo dell'ISIS. Potenzialmente tutti sono un obiettivo dell'ISIS, pure Renzi, figuriamoci se Renzi non è un obiettivo dell'ISIS. Non mi risulta che Renzi non circoli e non faccia comizi all'aperto, ma non voglio mettere in dubbio quello che ha detto Berlusconi, per carità. Però mi sembra strano, cioè perché Berlusconi è un obiettivo dell'ISIS e Renzi no? Renzi va all'aperto a parlare dappertutto, no? O sbaglio? Sì, sì. No, è vero, questo è vero. Beh, sì. Non lo so, ci vuole qualche conferma. No, è curioso. Beh, scusa. Agostino da Napoli, vai Agostino. Agostino? Agostino? Agostino? Non c'è. Gerardo, provincia di Sassari, vai. Ciao Giuseppe. No, dimmi Gerardo. Solo dire una cosa, no? Fa impazzire Davide quando l'altra volta con Bonanno faceva il numero del circo, entrano gli orsi, mi fa sbellicare dalle risate. Ora volevo capire, nemmeno tu Giuseppe, è intervenuta questa signora, la capra, la greca, non so chi è. La greca, la greca. Questa ignora, ci sono gli ignoranti e poi c'è chi ignora la sua ignoranza. Questa veramente è una che sti candida, è capace che va a fare una missione umanitaria paghiamo dei soldi e la salviamo. Questo veramente dovrebbe andare a finire. Ma gli volete dovrebbe andare qualcosa? Dove dovrebbe andare? Questa se no, c'è il rischio che questa va a fare una missione umanitaria, la salviamo pure. Vabbè, questo se non lo so, la missione umanitaria. Innanzitutto deve prendere le preferenze per essere eletta alla regione, beh, per cui già. Però questo. Una così, però Giuseppe, scusa, ho capito, qualcosa. Ma gli ho fatto le domande e non sapeva rispondere. Che devo fare? Devo strozzare, che devo fare? Quando si finivano le scuole medie, una volta si scriveva: inserisciti nel mondo del lavoro, vai a zappare, oppure vai a fare il classico. No, a questa qui, se non glielo dici tu, tesoro, vai a fare altre cose, perché non, veramente è assurdo. Questa qui si candida, dice, non sapere. Vabbè, si candida, d'accordo Gerardo, si candida, benissimo. Ci saranno dei cittadini che sceglieranno se mettere la X, sì, sul nome la Ro, oppure se fare, se scrivere il nome, se scrive il nome la greca, oppure no. Democrazia, abbiamo votato anche, però glielo vuoi dire, Capra? Glielo vuoi dire che è ignorante questa Capra, cosa? Capra, innanzitutto non ha risposto che non lo sapeva, non ha voluto rispondere perché dice no, non mi sottopongo al quiz, che è stata una furberia. E poi effettivamente non sapeva il nome del partito da che cosa derivasse, cioè Lega Sud Ausonia, capito? Quello Lega Sud Ausonia. Più grave. Vabbè, Gerardo, grazie. Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Da nessuna parte. Parenzo, tu sai che alla festa dell'unità, di questo fine settimana a Bologna c'è tutta una polemica perché non hanno invitato la cosiddetta Bersani. Opposizione interna, sì, Bersani, anche la Bindi, no, forse Bersani, Bersani non è stato invitato. Beh, devi sapere che tra tante persone che sono che interverranno alla festa dell'unità, che c'è il politologo Pasquino, no, cioè, ci sarà uno splendido drag queen show, cioè Bersani no, la drag queen sì. Stiamo parlando con la signora che in realtà è un uomo, Simona Sventura. Buonasera, buonasera. Ma ciao, buonasera. Come stai? Come stai? Bene, bene. Stupendo, bene. Meraviglioso. Come ti chiami in realtà tu? Allora, in realtà io sono Giuseppe e sì, per lavoro faccio spettacoli in travesti, quindi da trasformismo. Da trasformismo. Tu sei Giuseppe, omosessuale, diciamola tutta. Sì, sono gay, però ecco, fare la drag queen, insomma, non necessariamente per fare la drag queen bisogna essere gay. No, sono anche degli eterosessuali. In Italia diciamo che il 90%, 95%, sono tutte persone omosessuali, però se si va, già ci si sposta all'estero, in America, anche sì, in Francia, in Belgio, ci sono tanti eterosessuali che fanno i trasformisti, quindi fanno le drag queen per lavoro. Capito, Parenza, no, Giuseppe, perdoni, Giuseppe. No, volevo capire dalla drag queen, sì, lei è bersaniana però? Io cioè no, io sì, io sono una... Com'è? Io sono da Bosque da Riviera, diciamo. Come però... da Bosque da Riviera? Questo appartiene alla sua attività. Che ti piacciono, no, gli uomini e le capire, donne. Siccome Cruciani ha detto giustamente che la componente bersaniana non è stata invitata, smentiamo questa cosa dicendo: io drag queen sono bersaniana e quindi i bersaniani sono tranquilli. No, sei del PD innanzitutto o no? Sei allora sì, diciamo che sono del centro-sinistra. Mi voti PD. Schienato, esatto. Voti PD. Però nel PD che sei, Renziano o bersaniano? Bersaniano o Civatiana, magari. O Civatiana, sei ridotto. Posso dire nessuno dei due. Nessuno dei due, non te ne frega niente, basta che te pagano. No, per non è vero, non è che non me ne frega niente, è che comunque promettono tutti, alla fine nessuno arriva al dunque. Cioè, manco anche Renzi, dici tu, manco Renzi. Manco, non lo so, io ci spero, perché Renzi, lo sì, come comunque è un sì, parlamentare giovane, io mi auguro che si metta anche dalla parte per rendere un po' più giovani l'Italia. Più giovani, faccia delle leggi un pochettino più atte a tutelare anche le diversità. Poi quello vediamo, quindi, poi quello vediamo. Esatto. Allora, io voglio capire una cosa, caro Parenzo, ma ti sì, pare normale? No, sto parlando con Parenzo. Ti pare normale che non invitano il signor Bersani, che è stato segretario del PD, alla festa dell'unità di Bologna, no, e invitano invece, per carità, con tutto rispetto, andrebbero bene tutti e due, il signor Giuseppe, in sì, arte Simona Sventura, drag queen. Signor Bersani potrebbe pure incazzarsi, come? C'è la signora drag queen e non ci sono io a parlare alla festa. Però posso dire una cosa, la dimmi, signora drag queen con tutto il suo staff sì, ci va gratis, non è che, beh, non pure è che stanno pagando male, anche Bersani, anche Bersani gratis, andrebbe gratis, sì, allora, di solito mi faccio pagare, però in questa situazione ci vado gratis proprio per noi e anche un modo per farci conoscere di più, hai capito? Senti, perché Giuseppe, ma tu fine, non ho capito, quanti anni hai innanzitutto? Io ho 38 anni. Ma che fai di mestiere nella vita? Io sono un insegnante in una scuola privata. Insegnante? Insegnante? Sì. Sì, di sì, che? Di religione? Di cosa? No, no, quello no. Insegnante, cioè di giorno insegnante, sì, e di notte drag queen, esatto, travestita, sì, in sostanza. Sì, esatto, esatto. Ma senti, ma tu da che cosa, cioè, non hai fatto mai cose strane, marchette, cose, no, no? Prostituzione. No. Anzi, odio quando si associa alla parola drag queen la parola trans, che per carità io ho tante amiche trans, ma è una cosa sbagliatissima. Perché la vera drag queen è colei che si esibisce, si traveste solo per fare uno spettacolo, quindi per far divertire il pubblico, per fare cabaret. Questa, capito? Qui c'è la festa dell'unità il 24, se non sbaglio, cioè sì, venerdì, adesso, fra due giorni. Due volte ci siamo, tra l'altro. Due volte, anche... diglielo pure a Bersani ancora. Due volte la drag queen, due volte, Bersani nemmeno una. Il 24 e anche il 2, quindi. Eppure il 2 maggio, ma è una cosa, esatto, pazzesca, dai. Sembra incredibile. Sembra veramente incredibile. Hanno invitato tronisti, Masterchef. Sì, però un momento, chiariamo. Un momento. È importante perché sì, alla fine non è che ci ha chiamato direttamente il PD. Allora, la festa dell'unità è stato dato in gestione lo spazio. Vabbè, è uguale, dai, su, sempre festa del PD, lo saprà. Certo, lo spazio per fare gli spettacoli. No, io sto vedendo qui, scusami. Ma lei, scusi, le do un'idea. In contemporanea all'esibizione della drag queen show della signor, sì, Giuseppe qui, cioè, sì, la Simona Sventura, che credo che sia, come dire, mutuato da Simona Ventura, dunque. Beh, Simona Sventura, immagino. No, il nome nasce, sì, diciamo, per divertimento. Esatto, sì. Quando parlo somiglia un po' a Legge. Ecco, in contemporanea, questo spettacolo si svolgerà nella Red Square della Festa dell'Unità Bologna. Vabbè, invece, esatto, in contemporanea, caro Parenzo, sempre alle 21, ci sarà un interessante dibattito, magari là vicino, il ruolo delle regioni nel nuovo quadro istituzionale. Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, e Deborah Serracchiani, vice segretario della Nazionale PD, governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, intervistati da Gerardo Greco. Beh, bisogna dire al signor Greco di andare a fare una quindi puntatina. Gerardo Greco va a Bologna adesso da settimana. Ma volevo suggerire, sono ragazzi suoi, scusa, no, ma l'hai detto tu, perché hai letto il programma della festa. L'hai letto tu. No, ma voglio dire alla Simona Sventura, perché non fa questo grande beau geste e lascia il palco a Bersani? Lei dice, no, io stasera non sì, mi esibisco. Sì, sì, bravo. Guarda, ho lasciato il palco per tanti anni a Berlusconi, che comunque anche lui, se ve ne siete accorti, è sempre stato in fondo una drag queen. Cioè, in che senso? Come Berlusconi? Si mette i tacchi e si trucca peggio di una drag queen. Ditemi se non era una drag queen quella. Cioè, tu dici, alla fine Berlusconi è il prototipo della drag queen. No, diciamo che è una nostra battuta classica, però alla fine... Ma tu ci credi in questa svolta gay di Berlusconi con la Pascale? No, anche lì secondo me è una paraculata per prendere più voti. Dice più voti, perché tu dici che i froci portano voti. Guardate che ormai si parla solo di minoranza, ma una minoranza non lo siamo più. Cioè, sono tutti froci, dice, ce n'è tantissimi. No, tutti no, però ecco. Però sono venuti alle scoperte. Sono venuti allo scoperto, dici. Sì. Ma lo ammetto. Tra i religiosi, i preti, se ne parla molto. Pure là, vai a pizzicare ogni tanto. È una relazione. Guarda, io a me non piace attaccare, soprattutto quelle che sono le istituzioni. Però, ecco, come il famoso detto, non sbaglia mai, predicare bene, razzolare male. E allora? Razzolare male. Alla fine io credo che nelle istituzioni, soprattutto nel mondo della Chiesa, ce ne siano veramente tanti. E purtroppo... Ma tu sei a voile a vapore o no? Sei a vele a vapore o no? Cioè vai con tutte e due, uomini e donne, oppure solo con gli uomini? No, attualmente solo con gli uomini, anche se ho un passato da eterosessuale. Un passato da etero. Come, a un certo punto però hai detto, vabbè, mi piace a troppo. A un certo punto ho fatto la svolta. Mi piace troppo, no? Mi piace troppo il pisello, cioè non c'è niente da fare. Sì, sì. Non ha detto è un'attrazione fatale, insomma. È un'attrazione, così, ma vabbè, magari. Ma io ripeto, cioè, alla fine non... nessuno fa nulla di male. No, per carità, allora me lo dici. Di chi uccide... No, perché la propria moglie o chi va a rubare. Ma di qualcosa a Bersani, dai, che è stata esclusa dalla festa dell'unità, per concludere. Ti lascio il microfono, dai. Allora, dai. A Bersani, se mi viene a trovare, io gli lascio mezz'ora del mio show, glielo lascio mezz'ora? Tutto per lui. Ma beh, non è male. Segretario del partito. Ma non è male, però non è male, ma è già qualcosa. Ma se viene, Queen che gli lascia mezz'ora, se mi dà pure un bacio sulla guancia, glielo lascio. Oh, bravo. Ma i veri italiani, come diceva l'avvocato Tormina, i veri italiani non sono froci, diceva l'avvocato Tormina. Ma no, ma guarda che sarebbe un problema se sarebbero tutti froci, perché se fossero, ci accoppiamo, insomma, ci piace anche quello un po' più maschilotto, insomma, ci vuole, è vero, poi, ci vuole l'etero, ci vuole l'etero, sennò come si fa a procreare? Noi purtroppo non lo possiamo fare. Tu lo potresti fare, amica mia, lo potresti fare. Sì, però ecco, alla fine. Ma perché non metti incinta? Perché non vuoi fare un figlio? Fai un figlio con qualcuno. Ma perché non sono tutelato legalmente, ne varrebbe la pena. Poi succede qualcosa, alla fine. Vabbè. Benissimo. Voi sapete benissimo che in Italia, soprattutto, siamo indietro anni luce rispetto a tante altre realtà. E quindi, fino a quando non esistono delle tutele a nostro favore, anche per la famiglia, non si può fare nulla. Non si può fare niente. Uno lo può fare, però poi si deve prendere le proprie responsabilità. Allora, no? Drag Queen, ti ringrazio. Al posto di Bersani, la festa dell'unità. Ciao, ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao ragazza, ciao. Ti credo che è incazzata questa qua, cioè che è incazzato Bersani, eh? Cioè, hanno invitato veramente chiunque alla festa dell'unità, eh? Chiunque. Roberta, provincia di Firenze, buonasera. Cani? Sì, dimmi Roberta. Che mezz'ora sono in linea, mi sono scordato, ti volevo dire. Scusa. Io leggo qua sulla greca, su. C'ho solo. Sì, su quella ragazza che ti parlava. Che dicevi te, che aveva le foto bellissime su Facebook. Sì, bellissime, insomma, sì, prorompenti, diciamo, no? Con queste. Prorompenti, ok. Però queste tette enormi. Io ho 41 anni, quindi sono grande, no? Sì. E quindi mi sento nel fatto come lei, magari è giovane, non lo so, non la conosco. Quanti anni ha lei? Quanti anni ha? Mi sembra 35, 36, una cosa del genere. Comunque. Vabbè, però insomma, comunque ha fatto bene a fare questa carriera, secondo me. Ma quale carriera? Delle donne che sfruttano il corpo per piacere agli uomini. Non l'ho mai fatto, io sono sempre stata molto. Molto? Una bella donna, però non ho fatto un lavoro molto maschili, no? Ma insomma, perché mi hai chiamato, Roberto? Che non portasse. Perché mi hai chiamato? Cosa sto dicendo? Senti, non ho capito. Ti sto dicendo che io sono fatto lavori molto maschili, pensavo, hanno insegnato. Hai fatto lavori molto maschili? Benissimo, non è interessante. Ho fatto lavori molto maschili, dunque? Sì, mi facevano, però non si guadagna un cavolo. E allora? Invece a fare le opere, tra virgolette. Le spettacolo, come si chiamano? Drag Queen. Ma tu hai chiamato e in realtà non sai Renzo. Perché hai chiamato. Non sai Renzo. Perché hai chiamato. Sì, cara, dica. Non sai perché hai chiamato, non Roberto. Non parlare da Queen, lo so. Non sai perché hai chiamato, perché volevi parlare con me, forse. Sì, certo. Volevi parlare. Mi piace, Come? No, nel senso, io volevo dire che queste ragazze o signore fanno lo spettacolo. Però se volete rimorchiare, chiamatevi tra di voi, cioè, no, non ma è possibile usare la radio come mezzo per rimorchiare, è una cosa indegna proprio. Come rimorchiare? Questa trasmissione. Parento, ma lei, signorina, se voleva parlare con Cruciani gli manda un messaggino privato, non è possibile che usa il servizio pubblico del Sole 24 Ore per rimorchiare. Parento. Signorina, si vergogni. Ci sentiamo domani 18:30. Roberta, si chiarisca le idee, perché non ho capito nulla del suo intervento. Domani 18:30, ciao. Non bombardare i barconi, non bombardare. Bombardiamo casa di Parenzo, che è meglio. È meglio cosa? Bombardiamo casa di quei. Che si sa se è frocio, se quello è frocio, non è frocio, non si sa, può far frocio, non si sa. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Amici miei, siamo al flop. Radio 24. La passione si sente.